Capitolo 7. I 2 mesi dell'estate del 1913 che passai con mia figlia a Parigi furono gli ultimi giorni di pace e riposo che ero destinata a godermi. Trascorsi le giornate, o almeno alcune ore, nella preparazione di questo libro, perché sentivo di avere il dovere di offrire al mondo una chiara descrizione degli eventi che hanno portato alla rivoluzione delle donne in Inghilterra. Si scriveranno senza dubbio altre storie del movimento militante, quando nei tempi a venire in tutti i paesi del mondo fondati su una Costituzione il voto delle donne sarà universalmente accettato, come lo è adesso il voto degli uomini, quando gli uomini e le donne occuperanno il mondo del lavoro in termini ugualitari, come colleghi anziché come accaniti rivali, quando in una parola tutte le orribili e criminali discriminazioni attualmente esistenti saranno abolite, perché un giorno saranno abolite. Gli storici saranno in grado di sedersi con comodo e rendere giustizia alla strana storia di come le donne d'Inghilterra imbracciarono le armi contro il cieco e ostinato governo inglese e combatterono la loro battaglia per la libertà politica. Spero di vivere abbastanza a lungo da leggere questa storia, valutata serenamente, analizzata attentamente, esposta coscienziosamente. Sarà un libro migliore di questo, che è stato scritto sul campo della battaglia. Ma forse questo, per quanto approntato in fretta, darà al lettore futuro un'impressione più chiara della durezza e della disperazione del conflitto, e anche dell'inimmaginabile coraggio e della forza d'animo delle donne, che avendo conosciuto le gioie della battaglia, hanno perduto il senso della paura e continuano a lottare fino alla morte e ancora oltre, senza mai fare un passo indietro. Ogni passo, a partire da quella riunione dell'ottobre 1912, in cui dichiarammo definitivamente guerra alla quiete pubblica inglese, è stato tempestato da pericoli e difficoltà, spesso inattese e nascosti. Nell'ottobre del 1913 salì a bordo del transatlantico francese La Provence per la mia terza visita negli Stati Uniti. Il mio intendimento apparve sulla stampa pubblica in Inghilterra, Francia e America. Non facemmo nessun tentativo di tenere nascosti i miei propositi e infatti la mia partenza fu guardata a vista da 2 uomini di Scotland Yard. Mi era giunta voce che all'ufficio immigrazione del porto di New York avrebbero cercato di espellermi come straniera indesiderabile, ma diedi scarso credito a queste dicerie. Gli amici americani mi scrissero e mi telegrafarono parole di incoraggiamento, e quindi trascorsi il mio tempo a bordo della nave in tutta tranquillità, lavorando un po' e riposandomi in previsione delle immancabili fatiche che ci si aspetta da un giro di conferenze. Gettammo l'ancora nella baia di New York il 26 ottobre e lì, con mia grande sorpresa, le autorità dell'immigrazione mi notificarono un mandato di comparizione alla commissione d'inchiesta speciale di Ellis Island. I funzionari che mi comunicarono il mandato d'arresto furono molto cortesi, lo fecero anzi con una certa riluttanza. Permisero alla mia compagna di viaggio americana, la signora Rita Child Dort, di accompagnarmi a Ellis Island, ma nessuno, neppure l'avvocato mandato dalla signora O. H.P. Belmont, per sostenere la mia difesa, fu consentito di assistermi davanti alla commissione d'inchiesta. Mi presentai davanti a questi 3 uomini praticamente da sola, come una povera donna senza amici e senza alcuna delle mie risorse. Al momento di entrare nella stanza, sapevo che contro di me erano stati impiegati mezzi straordinari, perché dietro il banco dove sedeva la commissione vidi un dossier completo del mio caso, con la documentazione legale inglese. Queste carte erano state fornite da Scotland Yard o magari erano state fornite dal governo. Non potevo saperlo, ovviamente. Bastavano comunque a convincere la commissione che era una persona di dubbia fama, come minimo, e fui informata che avrebbero dovuto trattenermi fino a quando le alte autorità di Washington non avessero esaminato il mio caso. Era tutto sistemato perché potessi trovarmi a mio agio. Le stanze del commissario dell'immigrazione erano state assegnate a me e alla mia compagna. Gli uomini che mi giudicavano colpevole di moralità, una cosa di cui nessuna giuria britannica mi ha mai accusato, si adoperarono in 1000 modi per rendere gradevole la mia detenzione. Fui scortata per tutta l'isola e nelle zone assegnate agli immigrati sottoposti a fermo, il cui diritto a entrare negli Stati Uniti era ancora in discussione. Le enormi sale da pranzo, le immacolate cucine e l'ammirevole varietà dei menù mi impressionarono molto. Negli istituti inglesi non esiste niente del genere. Rimasi a Ellis Island 2 giorni e mezzo, abbastanza da consentire al commissario dell'immigrazione di Washington di presentare il mio caso al presidente, che ordinò il mio immediato rilascio. Chiunque fosse responsabile della mia detenzione sottovalutò completamente il clamore pubblicitario dell'incidente. La mia serie di conferenze ne beneficiò molto in termini di successo e io mi imbarcai per l'Inghilterra alla fine di novembre con un'assai generosa donazione americana per i fondi della nostra guerra, donazione che, ahimè, non mi fu concesso di consegnare di persona. La notte prima dell'approdo a Plymouth, del transatlantico Majestic della White Star, un messaggio radio del nostro quartier generale mi informò che il governo aveva deciso di arrestarmi direttamente al mio arrivo. L'arresto fu effettuato in condizioni veramente drammatiche il giorno dopo, subito prima di mezzogiorno. Il piroscafo gettò l'ancora all'esterno della baia e ci rendemmo subito conto che la baia, solitamente animata da imbarcazioni in transito, era stata sgombrata da tutte le navi. Sullo sfondo il tender, che in altre occasioni era sempre andato incontro al piroscafo, era fermo all'ancora in mezzo a due enormi navi da guerra grigie. Per un momento la scena rimase sospesa, con i passeggeri accalcati alle ringhiere del ponte con la muta curiosità di vedere cosa sarebbe successo. Improvvisamente la barca di un pescatore, lanciata al massimo, sfrecciò nella baia proprio sotto il naso delle lugubri navi da guerra. Due donne, tutte inzuppate, erano in piedi sulla barca e mentre passavano velocemente oltre la nostra nave, urlarono verso di me. I cats sono qui, signora Pankhurst! Sono vicini a voi! Le loro voci svanirono nella foschia e non udimmo più niente. Nel giro di un paio di minuti, un mozzo spaventato comparve sul ponte e mi portò il messaggio del commissario di bordo che mi chiedeva di scendere nel suo ufficio. Risposi che non avrei fatto proprio niente del genere, dopodiché la polizia invase il ponte e per la quinta volta dovetti stare ad ascoltare che ero in uno stato d'arresto per aver violato il Cat and Mouse Act. Avevano mandato cinque uomini da Scotland Yard, due da Plymouth e una secondina da Holloway, un numero sufficiente a prelevare una donna da una nave ancorata 2 miglia al largo. Fermamente decisa a non agevolare in alcun modo l'applicazione della famigerata legge, mi rifiutai di seguire gli uomini, i quali a quel punto mi presero e mi portarono al tender della polizia che ci aspettava. Risalimmo di qualche miglio alla costa della Cornovaglia con la polizia che rifiutava assolutamente di dirmi dove mi stava portando e alla fine sbarcammo a Bull Point, un pontile del governo vicino a un luogo pubblico. Qui ci attendeva un automezzo e, accompagnata dai miei guardiaspalle di Scotland Yard e di Holloway, fu condotta attraverso il Dartmoor fino a Exeter, dove subì una detenzione insopportabile e feci lo sciopero della fame per 4 giorni. Tutti, dal direttore alla carceriera, furono gentili e comprensivi e un funzionario mi rivelò in confidenza che mi trattenevano solo perché avevano ricevuto l'ordine di farlo fino a quando non si fosse tenuto il grande raduno dell'Empress Theatre di Earlscourt a Londra, che era stato organizzato per festeggiare il mio ritorno a casa. Il raduno si tenne la domenica sera dopo il mio arresto e la considerevole cifra di 15.000 sterline andò a finire nelle casse dell'associazione. La somma includeva le 4.500 sterline raccolte durante il mio tour americano. Diversi giorni dopo il mio rilascio da Exeter andai tranquillamente a Parigi per conferire con mia figlia riguardo alla campagna che stavamo per avviare, con l'intenzione di tornare per partecipare alla riunione della WSPU il giorno prima della scadenza del mio permesso. Tuttavia, la carrozza del treno sulla nave con cui viaggiavo insieme al mio medico e alla mia infermiera fu invasa a Dover da due detective che mi dichiararono nuovamente in stato d'arresto. Stavamo prendendo il tè quando gli uomini entrarono, ma lo buttammo immediatamente dal finestrino, perché lo sciopero della fame iniziava sempre al momento dell'arresto. Non facevamo mai sconti e facevamo resistenza fin dal primo istante dell'attacco. Questo gratuito arresto a Dover fu dovuto al fatto che la polizia aveva paura delle guardie del corpo delle donne, appena organizzatesi con lo scopo dichiarato di resistere ad ogni tentativo di arrestarmi. Che la polizia, così come il governo, non dovesse correre il rischio di incontrare delle donne che non avevano alcun timore di combattere, lo sapevamo ormai per certo. Ne avevamo un'ulteriore riprova proprio in questa occasione, perché sapendo che le nostre guardie del corpo ci stavano aspettando a Victoria Station, le autorità avevano chiuso ogni accesso alla banchina degli arrivi e il posto era sorvegliato da interi battaglioni di polizia. A nessun passeggero fu consentito di scendere dal treno finché io non fossi passata sulla banchina degli arrivi in mezzo a due file di poliziotti e detective e gettata dentro un automezzo da 40 cavalli, con all'interno due uomini in borghese e una carceriera e all'esterno altri 3 poliziotti. Attorno a questo automezzo erano schierati 12 taxi pieni di poliziotti in borghese, 4 per ciascun veicolo, mentre altri 3 sorvegliavano dal di fuori. Per non parlare dell'autista, anche lui al servizio del dipartimento di polizia. Poliziotti in motocicletta erano di guardia in vari punti pronti a seguire qualsiasi altro taxi sospetto. Una volta giunti a Holloway, fu nuovamente presa dalla macchina, portata alla accettazione e lasciata lì sul pavimento in condizioni di assoluto sfinimento. Quando arrivò il dottore e mi chiese bruscamente di alzarmi, fui costretta a dirgli che non mi reggevo in piedi. Mi rifiutai di essere visitata, dicendo che ero determinata a far assumere al governo la piena responsabilità del mio stato di salute. Mi rifiuto di farmi visitare da voi o da altri medici del carcere, dichiarai, e lo faccio in segno di protesta contro la mia condanna e contro il fatto di essere stata portata qui. Non riconosco più un medico della prigione come un medico nel senso proprio del termine. Ho negato il mio consenso ad essere governata in base alle regole della prigione. Mi rifiuto di riconoscere l'autorità dei funzionari del carcere e quindi la mia intenzione è di rendere impossibile al governo di applicare la condanna che mi ha imposto. Furono convocate delle secondine, fui piazzata su una sedia per invalidi e in questo modo fui condotta su per 3 piani di scale e chiusa in una cella non riscaldata con il pavimento di cemento. Dal momento che rifiutavo di alzarmi dalla sedia, fui sollevata e messa sul letto, dove rimasi distesa tutta la notte senza togliermi il cappotto né sbottonarmi gli indumenti. L'arresto fu effettuato di sabato e fui trattenuta in carcere fino alla mattina del mercoledì successivo. Per tutto questo tempo né cibo né acqua passarono dalle mie labbra. E in più feci lo sciopero del sonno, il che significa che per quanto umanamente possibile mi rifiutai di dormire e di riposare. Per 2 notti restai seduta sul pavimento di cemento, respingendo con determinazione le frequenti e ripetute offerte di visite mediche. Voi non siete un medico, dicevo all'uomo, voi siete un torturatore del governo e tutto ciò che volete è assicurarvi che io non stia per morire. Il medico, uno nuovo rispetto alla mia ultima carcerazione, aveva l'aria imbarazzata ed estremamente infelice. Presumo che lo crediate davvero, borbottava. Il martedì mattina il direttore venne da me e non c'è dubbio che io mi presentassi con un pessimo aspetto, quantomeno lo dedussi dall'espressione preoccupata della secondina che lo accompagnava. Al direttore dissi semplicemente che ero pronta a lasciare la prigione e che l'avrei fatto molto presto, viva o morta. Gli dissi che da quel momento in poi non mi sarei nemmeno più riposata sul pavimento, ma avrei continuato a camminare nella mia cella finché non mi avessero rilasciato, finché non fossi morta di stanchezza. Tenni fede alla promessa per tutto il giorno, passeggiando su e giù per l'angusta cella, incespicando e cadendo spesso, fino a che la sera il dottore non venne a comunicarmi che il mio rilascio era stato disposto per il mattino seguente. A quel punto mi sbottonai il vestito e mi distesi, completamente sfinita, e caddi immediatamente in un sonno quasi mortale. La mattina dopo, un'ambulanza motore mi portò al quartier generale di Kingsway, dove per accogliermi era stata approntata una sala ospedaliera. Le due carcerazioni in meno di 10 giorni avevano lasciato segni profondi sulla mia resistenza e il gelo della cella di Holloway mi aveva causato una dolorosa nevralgia. Occorsero molti giorni perché recuperassi almeno in piccola parte un buono stato di salute. Questi due arresti ebbero esattamente l'effetto che il governo sapeva che avrebbero avuto, una forte recrudescenza dell'attivismo militante. Non appena si diffuse la notizia del mio arresto a Plymouth, un grande incendio scoppiò al deposito di legname di Richmond Walk a Devonport e mezzo ettaro di legna del valore di migliaia di sterline, dietro a un parco giochi vicino a una ferrovia panoramica, andò completamente distrutto. Nessuno scoprì la causa dell'incendio, il più imponente mai visto nella zona, ma attaccata alle inferriate fu rinvenuta una copia di The Suffragette e su un altro cancello 2 biglietti, uno dei quali conteneva un messaggio per il governo. Come vi permettete di arrestare la signora Pankhurst e di tenere in libertà Sir Edward Carson e il signor Bonar Law? Sull'altro era scritto: la nostra risposta alla tortura della signorina Pankhurst e al suo vile arresto a Plymouth. Oltre a questo incendio, che divampò furiosamente da mezzanotte fino all'alba, un grande edificio disabitato a Bristol fu distrutto dal fuoco. Una bella casa in Scozia, anche quella disabitata, fu seriamente danneggiata da un incendio. La chiesa di St. Anne, in un sobborgo di Liverpool, andò parzialmente distrutta e molte casette postali di Londra, Edimburgo, Derby e altre città furono incendiate. In varie chiese di tutto il regno, le nostre donne portarono costernazione, inserendosi nelle funzioni religiose con rispettose preghiere rivolte ai detenuti per reati d'opinione. Il lettore avrà sicuramente saputo di queste interruzioni e, se è così, avrà letto delle donne riottose e strepitanti che avevano fatto irruzione nella sacralità delle messe, portando lo scompiglio nella casa di Dio. Penso che il lettore debba sapere cosa succede davvero quando le donne militanti, solitamente religiose, interrompono le funzioni in chiesa. Una domenica mi trovavo a Holloway in seguito all'arresto di Dover e alcune donne presenti alla messa pomeridiana all'abbazia di Westminster intonarono in coro questa preghiera: Dio salvi Emmeline Pankhurst, ci aiuti col suo amore e la sua forza a proteggerla, risparmi coloro che soffrono per le proprie opinioni, ascoltaci, oh Signore. Avevano appena finito la preghiera quando i sacrestani le afferrarono e con inaudita violenza le spintonarono fuori dall'abbazia. Un uomo inginocchiato che si trovava per caso vicino a una delle donne si dimenticò le raccomandazioni cristiane e la colpì in pieno volto con un pugno prima dell'arrivo dei sacrestani. Simili scene si sono ripetute in chiese e cattedrali sparse tra l'Inghilterra e la Scozia e in molte occasioni le donne sono state trattate in modo barbaro dai sacrestani e dai membri delle congregazioni. In altri casi le donne non solo non sono state molestate, ma è stato loro permesso di alzare le proprie preghiere in un profondo e rispettoso silenzio. Alcuni parroci sono stati addirittura così coraggiosi da chiudere con un amen queste preghiere per le donne detenute in prigione, ed è capitato anche che dei preti abbiano volontariamente offerto delle orazioni per noi. La Chiesa come istituzione, tuttavia, ha mancato i suoi obblighi etici di chiedere giustizia per le donne e di protestare contro la tortura dell'alimentazione forzata. Alla fine dell'anno abbiamo mandato diverse delegazioni a parlare con le autorità ecclesiastiche, con i vescovi, e in questo modo li abbiamo incontrati uno dopo l'altro. Alcuni vescovi, compreso il reazionario arcivescovo di Canterbury, si sono rifiutati di concedere il richiesto colloquio e quando è successo, la risposta della delegazione è stata di sedersi davanti all'uscio della residenza episcopale finché non giungeva la resa, cosa che si è poi sempre verificata. Dato che la prigione di Holloway fa parte della sua diocesi, il vescovo di Londra ricevette la visita della WSPU e gli fu chiesto di vedere con i suoi stessi occhi l'esecuzione dell'alimentazione forzata affinché potesse comprendere l'orrore di quella pratica. Fece visita a due delle donne torturate, ma non assistette al momento dell'alimentazione forzata e quando parlò pubblicamente diede un resoconto del colloquio che aveva avuto con loro, che non si discostava, WSPU, dalla versione dei fatti sempre sostenuta dal governo. La WSPU ne fu naturalmente indignata, mentre tutti gli amici del governo salutarono il vescovo come un sostenitore della politica della tortura. Solo chi ha sofferto il dolore e l'agonia, per non parlare dell'umiliazione morale dell'alimentazione forzata, può capire quanto fosse profondamente ingiusto che il vescovo di Londra si lasciasse manovrare dal governo per occultare la realtà. Può anche essere, come disse il vescovo per giustificarsi, che le vittime dell'alimentazione forzata soffrissero di più, perché durante la pratica si ribellavano. Ma come disse Mary Richardson su The Suffragette, aspettarsi che una vittima non si ribelli è un po' come dirle che soffrirebbe di meno se evitasse di saltare con un bruscolino nell'occhio. Il principio, sosteneva la signorina Richardson, è lo stesso. Uno si dimena perché il dolore è lancinante e i nervi degli occhi, delle orecchie e della faccia sono sottoposti a una tale tortura che sarebbe impossibile non opporre resistenza con tutte le proprie forze. Uno si ribella anche per un'altra ragione, una ragione etica, perché l'alimentazione forzata è un'aggressione immorale, oltre che dolorosamente fisica, e rimanere passivi darebbe la sensazione di compiere un peccato, il peccato di approvazione. L'essenza di una persona è disgustata, la resistenza è pertanto inevitabile. Credo che ora sia giusto spiegare la strategia politica che abbiamo adottato nel 1914 per portare la nostra causa direttamente al re. Il lettore avrà forse sentito parlare degli insulti fatti dalle suffragette a Re Giorgio e alla Regina Maria, e quindi è giusto che sappia realmente come furono portati tali insulti. Erano stati fatti diversi tentativi di presentare una petizione al re, una volta mentre si recava a Westminster per inaugurare il Parlamento e in un'altra occasione quando era in visita a Bristol. Nella seconda circostanza, la donna che cercò di inoltrare la petizione al re fu aggredita da uno scudiero della casa reale che la colpì con la lama piatta della sua spada. Alla fine optammo per la politica di presentare la petizione direttamente al re, poiché eravamo state costrette ad abbandonare ogni speranza di presentarla ai suoi ministri. Ingannati e traditi ad ogni occasione dal governo liberale, annunciammo che non ci avremmo più riposto la minima fiducia. Avremmo portato la nostra richiesta di giustizia direttamente al trono del monarca. Alla fine del dicembre 1913, mentre ero in prigione per la seconda volta dal mio ritorno in Inghilterra, si tenne una serata di gala a Covent Garden. L'opera in programma era la Giovanna d'Arco di Raymond Rosé. Erano presenti il re e la regina e l'intera corte e ci si aspettava uno scenario di eccezionale splendore. Le nostre donne approfittarono dell'occasione per compiere una delle più efficaci dimostrazioni dell'anno. Tre donne, elegantemente vestite, occuparono un palchetto proprio di fronte al palco reale. Entrando, erano riuscite a chiudere a chiave la porta senza destare il minimo sospetto e al termine del primo atto, non appena l'orchestra si fu ritirata, le donne saltarono in piedi e una di loro, con l'aiuto di un megafono, gridò rivolta al re. Richiamando la vicenda che stava andando in scena sul palco, la portavoce disse al re che oggi le donne stanno combattendo come Giovanna d'Arco secoli prima, per la libertà e che come la Pulcella d'Orléans venivano torturate e uccise nel nome del re, nel nome della Chiesa, con la partecipazione e la responsabilità del governo in carica. In quell'esatto momento, la leader di queste combattenti dell'Esercito della Libertà era chiusa in prigione e torturata dai funzionari del re. Il vasto pubblico fu gettato in un panico di agitazione e terrore e nel mezzo di un vero e proprio terremoto di urla e imprecazioni, la porta del palchetto venne buttata giù e le donne furono espulse. Non appena ebbero lasciato l'edificio, altre nostre donne, 40 o più, che erano tranquillamente sedute in galleria, si alzarono in piedi e fecero piovere opuscoli suffragisti sulle teste del pubblico sottostante. Dovettero passare tre quarti d'ora prima che l'agitazione si acquietasse e i cantanti potessero riprendere la loro opera. Il clamore generato da questo discorso diretto alla famiglia reale ci ispirò a un secondo tentativo di svegliare la coscienza del re e all'inizio di gennaio, quando il Parlamento si riunì, annunciamo che io stessa avrei guidato una delegazione a Buckingham Palace. L'idea fu accolta con entusiasmo dalle nostre associate e un gran numero di donne si offrirono volontarie per unirsi alla delegazione, che fu concepita per protestare contro tre cose: la continua negazione dell'emancipazione delle donne, l'alimentazione forzata e la tortura cat and mouse verso coloro che lottavano contro questa ingiustizia. La maniera scandalosa con cui il governo, mentre trattava con la forza e la tortura le donne militanti, concedeva la libertà assoluta agli uomini oppositori della Home Rule in Irlanda, uomini che avevano dichiarato pubblicamente che avrebbero attuato una politica non solo di attacco alla proprietà, ma anche di distruzione della vita umana. Scrissi una lettera al re, comunicando la rispettosa e leale richiesta della Women's Social and Political Union a Sua Maestà di concedere udienza a una delegazione di donne. La lettera proseguiva: la delegazione desidera sottoporre a Sua Maestà in persona la rivendicazione del voto parlamentare, che è l'unica protezione contro i gravi torti professionali e sociali che le donne subiscono. È il simbolo e la garanzia della cittadinanza britannica e significa il riconoscimento dell'uguaglianza, della dignità e del valore delle donne, in quanto sudditi del nostro grande impero. La delegazione presenterà inoltre a Sua Maestà un reclamo per i barbari e medievali metodi di tortura per mezzo dei quali i ministri di Sua Maestà stanno cercando di reprimere la rivolta delle donne contro la privazione del diritto di cittadinanza. Una rivolta nobile e gloriosa nello spirito e nello scopo, almeno quanto le passate lotte per la libertà che sono l'orgoglio della stirpe britannica. Ci è stato detto da qualche sbadato, uno di quelli che non si curano dei principi costituzionali su cui si basa la nostra richiesta di colloquio con Sua Maestà in persona, che la nostra conversazione dovrebbe avere luogo con i ministri di Sua Maestà. Noi ripudiamo questa proposta. In primo luogo è in contraddizione con il nostro senso della dignità femminile, ma soprattutto sarebbe assurdo e inutile per noi avere un colloquio con gli stessi uomini contro cui portiamo le accuse di tradire la causa delle donne e di torturare coloro che si battono per la causa. In secondo luogo, non intendiamo confrontarci con uomini di cui non riconosciamo l'autorità e che ai nostri occhi non hanno levatura giuridica e costituzionale in materia, perché noi non siamo state consultate al momento della loro elezione in Parlamento né per la loro nomina a ministri della Corona. Poi citavo come precedente, a supporto della nostra richiesta di colloquio con il re in persona, il caso della delegazione dei cattolici irlandesi, che nel 1793 fu ricevuta da Re Giorgio III. Dicevo inoltre, il nostro diritto di essere ascoltate e aiutate da Sua Maestà in quanto donne è ben più forte di quello degli uomini in possesso di diritti, perché si basa sulla mancanza di qualsiasi altro strumento costituzionale per ottenere la soddisfazione delle nostre pretese. Non abbiamo il potere di votare i membri del Parlamento e quindi per noi non esiste una Camera dei Comuni. Non abbiamo voce per la Camera dei Lord, ma abbiamo un re ed è a lui che rivolgiamo il nostro appello. Dal punto di vista costituzionale, noi, in quanto donne prive del diritto di voto, viviamo come ai tempi in cui il potere del monarca era illimitato. In questi tempi antichi, che sono stati superati per gli uomini, ma non per le donne, gli uomini che erano oppressi si rivolgevano al re, la fonte del potere, della giustizia e della riforma. Esattamente nello stesso modo, ora noi rivendichiamo il diritto di giungere ai piedi del trono e di fare al re in persona la nostra domanda, per la soddisfazione dell'avvertenza politica che non possiamo e non potremo più rimandare. Poiché le donne non hanno il diritto di voto, in mezzo a noi ci sono oggi lavoratrici sottopagate, schiave bianche, bambini oltraggiati e madri innocenti affette con i propri figli da terribili malattie. È per il bene e per la causa di questi infelici rappresentanti del nostro sesso che chiediamo a Sua Maestà un colloquio che siamo fiduciose ci vorrà concedere. Dovremmo attendere diversi giorni prima di avere la risposta a questa lettera e nel frattempo l'opinione pubblica fu sollecitata da alcuni eventi eccezionali e dolorosi.